Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata, benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani e ben ritrovati a Radio 24. Non c'è stato solo il caso Lehman Brothers ad aver turbato i sonni di molti risparmiatori italiani. C'è stato anche il tracollo islandese un anno fa che ha coinvolto le principali banche di quel paese. Una situazione che ha fatto saltare le garanzie su molti contratti assicurativi, almeno una trentina si calcola, proposti da numerose compagnie italiane negli ultimi anni, e nell'onda della crisi finanziaria che si è molto concentrata sugli effetti provocati dal fallimento della banca americana, tante altre situazioni hanno avuto decisamente meno risalto, come ci hanno segnalato anche nelle ultime settimane molti ascoltatori. E questa è una di queste, appunto, è proprio quella situazione in cui si sono trovati i sottoscrittori di prodotti di investimento agganciati alle obbligazioni di banche islandesi. Alcuni gruppi bancari e assicurativi stanno tutelando, e lo hanno già fatto anche negli ultimi mesi, i sottoscrittori di questi prodotti attraverso una restituzione del capitale investito con una proposta di scambio. E allora noi di questo parleremo stamattina con l'iniziativa proposta da una di queste banche, Cariparma. Ma prendendo spunto da tutto ciò, forse vale la pena anche tornare a spiegare cosa sono questi prodotti di investimento, cosa sono le polizze unit linked e index linked, nomi complicatissimi, ma in realtà abbiamo scoperto che negli ultimi anni molte famiglie avevano sottoscritto questi prodotti. Allora, chi ci aiuta stamattina? Stefano Compiani, responsabile direzione Wealth Management di Cariparma, benvenuto a Salva Danaio. Grazie. Fatto anche questo viaggio da Parma, quindi noi siamo ben contenti di averla qui. Al telefono Alessandro Pedone, responsabile ADUC per la tutela del risparmio, oltre che consulente finanziario. Pedone, buongiorno e bentornato a Salva Danaio. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. 800 24 00 24, vi ricordo il numero verde per intervenire questa mattina, 349 238 6666, il numero per i vostri messaggi. Brutta giornata in borsa oggi, forse in questa misura non la vedevamo da un bel po' di tempo. Abbiamo un calo di Londra dell'1,30%, Parigi e Francoforte stanno perdendo l'1,7%, Milano -1,88% sul FTSE MIB. Mercato ancora concentrato sulle trimestrali che, tutto sommato, almeno quelle in arrivo dagli Stati Uniti, non sono per niente apparse brutte, come per esempio ieri quella nel settore finanziario, Wells Fargo, ma anche altre banche d'affari appunto hanno comunicato i risultati societari. Morgan Stanley per esempio ha avuto addirittura un rialzo in borsa del 5%, eppure stamattina sono proprio i titoli finanziari ad accusare le perdite più pesanti in tutta Europa. Va male anche l'auto e naturalmente il settore assicurativo, e nell'onda del vortice delle vendite ci sono anche i titoli del settore petrolifero, come potete immaginare, con questo petrolio che è a $82 al barile, almeno lo era ieri, oggi ha ritracciato, e soprattutto con questo dollaro che continua a scendere sull'euro, 1,5036, il picco minimo toccato stamattina dal biglietto verde sulla moneta unica europea, adesso recupera 1,4977. Fattori che stanno un po' turbando i sonni degli investitori. A Milano i peggiori titoli fondiari a -4, Unipol -4, Intesa San Paolo -3,20, -3 per il Banco Popolare, Pirelli -2,86, Unicredit -2,80, -2,7% per un gruppo molto ampio di titoli, Mondadori, Bulgari, Mediolanum, STM e anche in pregiro. Il segno più rimane solo su Snam Rete Gas, che è in progresso di un punto, e Terna +0,09%, quindi l'orientamento del mercato è abbastanza chiaro, titoli difensivi oggi si scelgono prevalentemente. Oggi peraltro abbiamo altre trimestrali: Amazon, American Express, AT&T, McDonald's, e quindi anche oggi vedremo un po' negli Stati Uniti quale sarà l'accoglienza che verrà riservata alle trimestrali rilasciate dalle grandi aziende. Direi che però possiamo lasciare la borsa, andiamo al tema di oggi dopo averli trascurati a lungo. Oggi torniamo a parlare degli assicurati congelati tra virgolette dal crack dell'Islanda, e cioè i possessori di quelle polizze che avevano come sottostante le obbligazioni degli istituti di questo paese finito in bancarotta. Corona in caduta libera, banche chiuse e nazionalizzate, depositi stranieri congelati. Il crack islandese dello scorso anno, proprio come accaduto in seguito al fallimento di Lehman Brothers, ha trascinato con sé anche numerosi risparmiatori italiani. In particolare gli assicurati che avevano sottoscritto polizze di Carige Vita, Quadrifoglio Vita, Sasa Vita, Ubi Vita e Ergo Previdenza. prodotti aventi come sottostante titoli agganciati alle banche islandesi finite in amministrazione controllata. A che punto sono i rimborsi? Come si sono mosse le compagnie assicurative che avevano venduto ai propri clienti queste polizze index linked? La prima compagnia a decidere i rimborsi per l'Islanda è stata Reale Mutua, che aveva avviato una copertura finanziaria sul fallimento delle banche islandesi già nel 2006, subito dopo l'emissione delle polizze, intimorita da previsioni negative espresse all'epoca sulla stabilità degli istituti di Reykjavik. La copertura a quel tempo aveva un costo limitato e il piano messo in atto da Reale Mutua per il rimborso dei 6 prodotti coinvolti è stato di fatto a costo zero per le casse della società. Una scelta che invece non è stata fatta dal gruppo Fondiaria SAI, che ha dovuto pagare di tasca propria parte dei rimborsi. Come? Attraverso un intervento che prevede il riscatto del contratto originario del cliente e la possibilità di sottoscrivere un nuovo prodotto con una scadenza differita di 2 anni. Una soluzione simile è stata adottata anche da Cariparma, che ha proposto ai titolari di polizze legate alla banca islandese Glitnir di scambiarle con obbligazioni zero coupon, cioè senza cedola, obbligazioni che scadranno 2 anni dopo la naturale scadenza della polizza oggetto di scambio. Abbiamo già cominciato ad anticipare allora i termini di questa offerta di scambio proposta da Cariparma, dottor Compiani. Naturalmente adesso lei segna il compito di andare su tutti i dettagli che possiamo dare ai sottoscrittori di questi prodotti di investimento. Intanto, quante polizze riguarda questa offerta di scambio? Quante ce ne sono in circolazione sul mercato e quanti potenziali famiglie appunto interessate a questa offerta? Dunque, innanzitutto buongiorno a tutti. Buongiorno anche al dottor Pedone, che è collegato telefonicamente. Dunque, le polizze sono circa 10.100 e riguardano un numero praticamente molto vicino di clienti, in quanto sono rarissimi i casi che i clienti risultino titolari di più di una polizza. Hanno scadenze diverse, si tratta di 5 contratti, le cui scadenze variano dal dicembre di quest'anno fino al dicembre del 2013 e saranno assoggettate all'OPS in maniera singola, quindi per ogni singola emissione ci sarà un'offerta specifica. Queste date che ci ha dato si riferiscono alla scadenza dei prodotti, come dire, originari e teoricamente quando erano state vendute, dottor Compiani? Si collocano come vendita tra gli inizi del 2004 e l'ultima è stata la primavera del 2006, 30 quindi, marzo del 2006. Durata al di sotto dei 10 anni? Sì, durata tra i 5 e i 6 anni. 5-6 anni. Come state comunicando a questi sottoscrittori dell'arrivo di questa opportunità? Ma allora, c'è da fare un piccolo chiarimento. Innanzitutto, tutta questa iniziativa parte da una volontà esplicita della banca e quindi non è, come ho sentito citare nell'articolo, un'iniziativa della compagnia di assicurazione, quindi è la banca che ha deciso in maniera autonoma di prendere carico di questa situazione. Ha fatto una prima scelta e l'ha comunicata agli organi di stampa e al mercato nel marzo di quest'anno, quando il CDA ha deliberato gli accantonamenti necessari per la operazione. I tempi sono stati, diciamo, medio lunghi, nel senso che stiamo arrivando adesso a capire bene quando saranno le date, perché ci troviamo di fronte ad un'operazione innovativa da un punto di vista finanziario, nel senso che c'è un OPS tra 2 strumenti finanziari diversi, quindi a fronte di un prodotto assicurativo l'OPS offre al cliente la possibilità di sostituirlo e di scambiarlo con uno zero coupon emesso da, in questo caso da Cariparma. Quindi questi sono stati i momenti. Adesso noi siamo in attesa che Consob deliberi positivamente la natura dell'OPS, tutte le varie caratteristiche, e solo quando avremo questa conferma di fatto scatterà materialmente l'operazione, che dovrebbe comunque avere la sua regolarizzazione all'interno del 2009, quindi tra la metà di novembre e la fine dell'anno in corso. Anche perché la prima scade proprio il 7 dicembre. Sì, in effetti i tempi sono abbastanza stretti e infatti questa polizza che scade il 7 di dicembre avrà probabilmente un periodo di OPS più corto, più contenuto rispetto agli altri quattro scadenze. Ai clienti, per dovere di informazione e anche per tutelarli nell'ambito appunto dell'informazione stessa, abbiamo inviato in accordo con Consob una copia del comunicato stampa, che al momento è l'unico strumento ufficiale sul quale dibattere. Mi stava segnalando la mia assistente Gaia Romani, che è stata l'autrice della scheda di apertura, appunto della precisazione che ha fatto prima, perché noi in realtà nella scheda abbiamo detto una soluzione simile alle altre compagnie citate è stata adottata anche da Cari Parma, ma non l'abbiamo definita compagnia, forse non ci siamo sì, capiti. Sì, no, ma è corretto, no? Però questo ha creato una necessità di allungare un attimino i tempi in termini anche di richieste di autorizzazioni e sarebbe stato probabilmente più veloce una sostituzione di una polizza, ma è un'iniziativa totalmente a carico dell'istituto di credito. Esatto. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi, chiamateci. Sapete, prodotti di investimento che sono di Cari Parma, che sono oggetto di questa offerta pubblica di scambio, chiaramente noi non possiamo suggerirvi se aderire o meno, perché ci mancherebbe altro, la Consob ci chiama, ci arresta tutti, però insomma, se vi fosse arrivata a casa questa lettera con questa comunicazione, magari qualche termine non lo avete capito, siamo qui apposta per spiegarvelo. Adesso ci faremo spiegare anche dal dottor Compiani esattamente qual è il prodotto con cui viene proposto lo scambio, perché anche questo è molto importante. E nel frattempo noto che molti ascoltatori stanno cominciando a chiamare, non tanto per chiederci meglio dettagli rispetto a questa operazione, ma invece per parlarci dei loro investimenti effettuati per esempio in valuta. Alessandro Pedone, perché poi il tema, come dire, delle obbligazioni islandesi è proprio questo, no? Adesso noi non stiamo a ricostruire tutto il tracollo dell'economia di quell'isola felice fino a qualche tempo fa, molto basata sulla pesca e il merluzzo, ma in realtà come dire, che si è divertita anche per molti anni a fare investimenti su valute profittevoli che poi si sono tradotte alla fine in questo tracollo. Cosa ci insegna questa vicenda, Pedone? Cominciamo da qui con lei. Ma sicuramente che la prima cosa che gli investitori devono fare è investire solo in cose che conoscono. Molto spesso, purtroppo, un po' presi dall'azzardo e quindi anche un po' dall'aspetto degli investimenti che talvolta sconfina nell'aspetto ludico, molte altre volte anche stimolati da venditori della finanza, siano essi in banca o promotori finanziari, sovente gli investitori fanno investimenti ai quali non conoscono fino in fondo i rischi. Quindi il consiglio è sempre quello di stare nelle cose più semplici possibili, e in modo particolare parlando di valute è bene ribadire che il mercato delle valute, fra tutti i mercati finanziari che sono sempre imprevedibili, è certamente quello più imprevedibile, e quindi il rischio valutario è un tipo di rischio finanziario dalla quale gli investitori finanziari devono stare il più a largo possibile se non hanno competenze molto molto specifiche. Adesso vorrei anche spiegare, visto che gli ascoltatori che si sono anche invece un po' così appassionati al tema di questa mattina ci stanno chiedendo, allora visto che parlate di tutto questo, dateci una volta per tutte la definizione di polizza unit o index. Adesso lo faremo, fra 20 secondi devo ridare la linea alla regia per la prima pausa di oggi, ma magari Pedone chiederò dopo anche così un giudizio su questi piani, no, di risarcimento che le banche, che le assicurazioni in Italia hanno proposto ai sottoscrittori, in questo caso di polizze legate alle obbligazioni islandesi, ma negli ultimi mesi anche le polizze agganciate ai titoli Lehman Brothers, se insomma la convince tutto questo piano di risarcimento, chiamiamolo così, che è stato messo in campo, se è stata un'azione corretta, se si poteva fare qualcosa di più. Eccoci ritrovati in diretta, questa mattina siamo ritornati su una brutta bancarotta avvenuta un anno fa, quella dello Stato islandese. In realtà il crack ha riguardato le principali banche di questo paese e abbiamo scoperto nei mesi successivi che in Italia c'erano molti sottoscrittori di prodotti di investimento che erano agganciati alle obbligazioni emesse da queste banche. E allora, un po' come è successo per Lehman Brothers, gran parte delle compagnie assicurative italiane e poi nella fattispecie di cui parliamo questa mattina anche le banche sono intervenute per tutelare i sottoscrittori di questi prodotti di investimento con delle azioni risarcitorie, chiamiamole così, oppure con delle proposte di scambio. Tu mi ridai queste polizze agganciate a questi prodotti che ovviamente per te non hanno più alcun valore, noi ti diamo, dottor Compiani di Cari Parma, che cosa? Un'obbligazione bancaria, qual è il nocciolo della proposta di Cari Parma? Allora, il nocciolo è questo: è stata inviata in Consob una richiesta per un OPS che preveda uno scambio. Un'offerta pubblica di scambio che preveda uno scambio per ogni singola emissione tra il contratto originario di polizza e un'obbligazione senior, quindi non subordinata, emessa da Cari Parma e che abbia una durata di 2 anni superiore alla scadenza della polizza. La tipologia tecnica dell'obbligazione è uno zero coupon, e quindi un'obbligazione che non riconosce cedole, che non ha cedole nel durante, ha un prezzo di emissione iniziale e un valore di rimborso finale. Tra l'altro noi abbiamo anche imparato da questa crisi che i nomi di queste banche islandesi erano impronunciabili, il sottostante bancario, diciamo l'obbligazione sottostante alle polizze che invece avete distribuito voi, un sottostante Glitnir, una appunto delle banche, tra l'altro forse la più grande? Sì, delle tre più grandi, oggi abbastanza impronunciabile, fortunatamente anni fa si chiamava Island Bank, che quantomeno era più comprensibile la provenienza e la natura dell'oggetto sociale. Glitnir si fa un po' più fatica. No, così almeno abbiamo dato anche questa indicazione, qualora qualcuno avesse il prospetto originario della polizza in casa e magari non si è accorto che c'è questa proposta di Cari Parma, gli viene in mente Glitnir e magari va a dare un'occhiata in maniera un po' più attenta a questo prospetto. Quanto tempo ci sarà, dottor Compiani, per fare l'eventuale adesione all'offerta di scambio? Perché so che la banca non può ovviamente sollecitare a farlo, e quindi come deve comportarsi anche un sottoscrittore, insomma? Ma da un punto di vista di rispetto delle date, se tutto andrà come ci auspichiamo, dovremmo avere a disposizione per 4 delle 5 missioni almeno una quarantina di giorni, e mentre il tempo sarà un po' più ridotto per quella che citavamo prima, in quanto ha una scadenza il 7 di dicembre, ma fortunatamente riguarda solo una settantina di sottoscrittori, quindi il tempo potrebbe essere sufficiente. No, tanto per definire ancora una volta che lo scambio è automatico, ma naturalmente deve essere volontario da parte del contraente, diciamo della vecchia polizza. Assolutamente volontario, nel pieno rispetto dei dettami anche della MIFID, quindi nessun tipo di sollecitazione, perché è evidente che ci sia un conflitto anche di interessi nella proposta. Il cliente chiederà, riceverà tutte le informazioni necessarie e dovrà decidere autonomamente se aderire o meno all'offerta pubblica di scambio. Adesso torniamo ad Alessandro Pedone, responsabile ADUC per la tutela del risparmio, ma dopo aver sentito Paola dalla provincia di Milano che ci ha chiamato all'800240024. Paola, benvenuta. Grazie, buongiorno e congratulazioni. Grazie Paola, ci dica tutto. Senta, io volevo fare una domanda all'esperto, cioè posso? Certamente Paola, come allora, siamo qua per lei. Dunque, devo mettere insieme le idee. Allora, 15 anni fa ho fatto una polizza che non ho capito bene, loro mi hanno detto che è un piano d'accumulo, non è legata a nessuna assicurazione. Polizza dell'intesa, cioè sarebbe intesa vita, si chiama la polizza in tempo, sì, che rende quanto ho visto abbastanza bene. Ecco, quando è il momento del riscatto? Volevo sapere se questa polizza è basata su dei titoli o no, e soprattutto se è basata su quel titolo lì o no. Allora, è Paola, una domanda un po'... No, allora, no, il tema è anche questo. Lei è molto cara, noi siamo molto contenti naturalmente che lei chiami in radio per chiedere questa consulenza, ma non faceva prima chiamare la persona che le ha venduto questa polizza, tanto per chiedergli, Paola, io le do questo suggerimento, ma con grande affetto, naturalmente. Lei lo deve chiamare. Ma lei gli deve dire: guarda, io so che da un anno a questa parte sta succedendo tutto questo, ci sono questi titoli americani che abbiamo scoperto che sono legati a tante polizze vita con le quali magari noi sottoscrittori ci vogliamo costruire la nostra pensione del futuro. Mi spieghi bene com'è composta la mia? Lo farà Paola? Perché se poi c'è quel titolo lì dell'Islanda, io ci perderei. Ma direi no, tra l'altro non sarebbero nemmeno in grado di restituirle un bel niente. Però Paola, io credo che... No, stia tranquilla, adesso non le vogliamo mettere paura. Credo che se questo fosse successo, la sua assicurazione l'avrebbe sicuramente contattata. Alessandro Pedone, mi aiuta a rassicurare intanto Paola. Sì, allora... Dunque, prima di tutto, purtroppo nel mondo delle polizze vita sono prodotti così variegati, è difficile soltanto dal nome del prodotto riuscire a capire che cosa si tratta. Sicuramente da quello che ci dice l'ascoltatrice c'è un pochino di contraddizione, perché certamente è una polizza vita, quindi se gli hanno detto che non è una polizza e poi l'emittente è Intesa Vita, certamente c'è una contraddizione in questo. E poi c'è il PAC, ha detto, quindi è un piano d'accumulo. C'è un PAC, da queste informazioni, ma qui non posso essere certo, l'impressione è che si tratti in realtà di una unit linked, poi esatto, magari dopo se c'è tempo spieghiamo che cos'è. Certamente, l'ho promesso, lo dobbiamo fare, unit, sì. Ed è, come dire, un piano di accumulo di capitale non su un fondo di investimento, ma su un prodotto che è appunto Unit Link, che è un fondo di investimento fra virgolette travestito da polizza, cioè la veste giuridica è di una polizza vita, ma il contenuto economico effettivo sostanzialmente è l'investimento in un fondo comune di investimento. Allora, dottor Compiani, voleva intervenire anche lei su questo, perché il caso comunque di Paola ci insegna che allora noi facciamo tanti errori, perché vogliamo banalmente molto spesso mettere da parte il gruzzoletto che magari abbiamo accantonato per tutta la vita, proteggerlo al massimo, e poi ad un certo punto, magari proprio malauguratamente, ascoltando una trasmissione radiofonica, ci vengono tutti i dubbi del mondo su che cosa diavolo abbiamo comprato. Come si fa lo sportello a gestire queste situazioni? Che indicazioni date alle vostre persone? Perché abbiamo scoperto pure che negli ultimi anni, insomma, le banche non sempre hanno fatto consulenza appropriata. Dunque, innanzitutto è giusto quello che ha detto il dottor Pedone, da un semplice nome di fantasia risalire, ancorché intesa vita sia conosciuta, è difficile. Penso che abbia ragione, può darsi che, stante la presenza del piano d'accumulo, ci troviamo di fronte a quelle polizze che a suo tempo, visto che la signora parla di 15 anni, erano collocate dagli istituti bancari facendo leva anche sul beneficio fiscale della detraibilità. Mm-hmm. Quindi sono abbastanza tranquillo, però è giusto che la signora si informi presso chi le ha venduta a suo tempo. Ma allora, il mondo dei prodotti assicurativi trascina da sempre un'alea di tranquillità e di sicurezza in quanto assicurazioni, quindi bisogna assicurare. Bisogna spiegare molto bene allo sportello la differenza tra le varie tipologie di prodotti, perché proprio ognuno di questi prodotti va ad investire in campi diversi, e al di là del rischio, che bisogna ricondurlo sempre al profilo di rischio del cliente, ogni singolo prodotto è giusto conoscere dove investirà e su che tipologie di mercati andrà eventualmente a prendere alcuni rischi. Quindi è molto importante, in sede di relazione con il cliente, spiegare la natura della polizza. Certo che adesso sarà un po' più facile spiegare la natura delle polizze, visto che ci si sta riportando in maniera abbastanza netta sul ramo vita, quello proprio più semplice, quello base, e adesso lo riporta anche il Sole 24 Ore, da un paio di giorni che sta pubblicando i rapporti sulle assicurazioni. Le index e le unit stanno vivendo una stagione non certo facile, dottor Compiani. Questo che cosa significa anche per chi le distribuisce? Perché comunque erano prodotti molto remunerativi, soprattutto per il comparto della cosiddetta banca insurance, cioè la banca che vende anche prodotti assicurativi. Sì, tutto vero. Al di là delle strategie chiaramente commerciali che ogni istituto di credito, ogni compagnia assicurativa può avere, quest'anno abbiamo visto un ritorno su quelle che in gergo si chiamano di ramo primo, ma perché c'è una situazione che è quella di mercato, di tassi molto bassi, e quindi questi contratti assicurativi spesso abbinano, oltre che la garanzia del capitale, anche un rendimento minimo garantito, e questo fa premio in sede di proposta commerciale come alternativa a altri prodotti più basici. Non sono totalmente d'accordo sulla campagna denigratoria del mondo unit e index. Diciamo che oggi stanno sicuramente scontando anche qui il mercato, nel senso che le unit che andavano ad investire prevalentemente su mercati di tipo azionario oggi scontano, come tanti altri prodotti legati al mondo dell'azionario, ancora molta paura da parte dei clienti a rientrare su questi mercati, a sceglierli in maniera corretta e quindi a diversificare il loro portafoglio. E poi sono nate nuove normative, ad esempio quella sulle index, che partirà qui a novembre, che chiaramente dà delle regole nuove nell'ambito della costruzione del prodotto, e per costruire certi prodotti si ha bisogno anche di certe condizioni di mercato. Mm-hmm. Quindi è un po' l'insieme di tutti questi fattori. Alessandro Pedone voleva aggiungere qualcosa rispetto a tutto questo. Questa normativa ISVAP che si fa più stringente, noi prendiamo atto, un po' però sempre il solito atteggiamento del, come dire, intervenire quando i buoi sono scappati dal recinto. Adesso non mi ricordo esattamente come diceva il proverbio, però insomma la situazione è un po' questa, sì, meglio tardi che mai in ogni caso. Un'informazione tecnica rispetto alla domanda di prima: ho visto sul sito, tra l'altro sul nostro sito dove diamo risposte gratuite, che c'era una specifica domanda su questa. Sì. In tempo è un prodotto che era collegato alla gestione separata rendifondo intesa vita, quindi non si tratta di una unit come avevo detto precedentemente, ma si tratta di una polizza tradizionale. Quindi diciamo c'era un po' di confusione rispetto, resta tutto quello che gli abbiamo detto di giusto, cioè di andare da chi gli ha venduto il prodotto e di farselo spiegare. Di farselo spiegare bene, soprattutto, e di farsi quantificare quando scadrà il prodotto, soprattutto quando scadrà, come funziona, eccetera, eccetera. Sul discorso della campagna denigratoria delle polizze unit eccetera, io continuo a farla perché sono assolutamente straconvinto avendole viste tutti i giorni, e non solo le unit e le index sono strumenti assolutamente da non sottoscrivere per il solo nome, ma anche le polizze vita tradizionali a fini di investimento sono strumenti assolutamente inefficienti, pieni di costi, e in finanza l'aspetto dei costi è un aspetto determinante, perché più un prodotto finanziario è costoso e sicuramente meno è conveniente, perché a parità di rendimento atteso si rischia di più o a parità di rischio si guadagna di meno, e questo è un dato di fatto. Quindi capisco ovviamente che chi li vende non può dirlo, perché è difficile farsi dire dall'oste che il vino è cattivo, ma le assicurazioni sono dei costi, cioè ci si assicura perché si vuole trasferire alla compagnia assicurativa un rischio che non si vuole noi. Questa è la funzione dell'assicurazione, il trasferimento di un costo, e non si investe con un'assicurazione. Con un'assicurazione si spende, non si investe. Esatto, si vorrebbe, e alla fine poi si vorrebbe proteggere. Io mi metto a metà strada fra le due come dire, considerazioni fatte questa mattina. Io vorrei come dire, non denigrare completamente questi prodotti, ma invitare tutti a costruirli in maniera più semplice come l'ISVAP indica, e soprattutto magari costruirli agganciandoli, se proprio li si deve agganciare a qualcosa per farli rendere un po' di più, a qualcosa che è un po' più vicino a noi, quindi un po' meno Islanda, un po' meno Argentina, un po' meno Lehman Brothers, insomma qualcosa di un po' più comprensibile per tutti. Va, facciamo uno sforzo comune, essere meno detrattori, meno rigidi anche su certi prodotti di investimento, però prendiamo anche atto del fatto che la sofisticazione finanziaria qualche danno, e anche molto importante, l'ha fatto. Allora, dottor Compiani, naturalmente vede l'ora di intervenire su quello che ha detto Alessandro Pedono poco fa, però sentiamo anche Matteo da Bologna. Matteo, benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti i suoi ospiti. Ci dica tutto. Allora, io, mia moglie ha sottoscritto una polizza Index Linked nel 2007, sì, con la cassa di risparmio di 100, e la polizza assicurativa è Eurovita Assicurazione. Nel sito internet di Eurovita non danno nessuna spiegazione, dicono il sito è in allestimento, la situazione è in stallo, e non danno nessuna informazione. Io mi sono recato quando vedevo che il monte capitale mese dopo mese diminuiva, poi ci recavamo in banca per chiedere delucidazioni, e loro dicevano di non preoccuparsi perché comunque era legato a un indice azionario. Oltretutto, premetto, mia moglie ha sottoscritto questa polizza in buona fede, perché c'è scritto polizza assicurativa, quindi anche il nome è già un po' fuorviante. Ma insomma, Matteo, no, per capirci, lei ha scoperto che ha un come sottostante l'Islanda? Sicuramente sì, perché mia moglie aveva chiesto. No, ma me lo dice perché lo ha letto, o perché adesso lei lo sta ipotizzando, perché noi stiamo proponendo questo argomento stamattina? No, io ci sono dietro da 6 mesi con la banca, che gli ho già mandato delle raccomandate per chiedere cosa vogliono fare, e alla fine mi ha risposto che è colpa nostra, perché dovevamo leggere il contratto. Ecco, allora Matteo, una persona che va in banca e chiede: io voglio una cosa sicura, tranquilla. Nel 2007 c'erano, io ho fatto delle obbligazioni. Guardi, lei ha toccato il tasto, proprio quello che volevo toccare io. Ritorno per un attimo ad Alessandro Pedone, perché aver venduto un prodotto di investimento di questo tipo nel 2007, quando la crisi era dietro l'angolo e comunque le avvisaglie di quello che sarebbe successo in Islanda c'erano tutte, io come dire, punterei su questo. Pedone, cosa possiamo suggerire a Matteo? Sì, ora Eurovita ha 7 o 8 polizze con questi tipi di sottostanti. Io in realtà l'idea che si poteva prevedere non la condivido un granché. Sposo molto di più il concetto di vendere prodotti assolutamente complicati, travestendoli con espressioni appunto come polizza assicurativa, quindi come dire, tra virgolette, l'inganno, non sul piano giuridico ma come dire sul piano sostanziale, dell'investitore deriva da questo aspetto, cioè di prendere delle cose finanziariamente estremamente complicate, impacchettarle in aspetti di marketing commerciali pieni di fotografie che danno serenità, raccontando un sacco di cose che poi sono fuffa nella sostanza, e l'investitore si ritrova con una cosa che non è assolutamente adeguata alle sue caratteristiche. Questo è l'elemento centrale, che poi la banca lo potesse prevedere o l'assicurazione lo potesse prevedere, perché nel 2007 sì, è vero, certamente c'erano le avvisaglie, ma questo discorso mi sembra un po' più complicato e un po' più difficile da sottoscriversi in fondo, ecco. No, tra l'altro adesso Matteo diceva anche: io mi reco in banca, non mi sanno dire niente, cerco di individuare delle informazioni sul sito, non mi dicono che è ancora in allestimento. A fronte di questi atteggiamenti di assoluta chiusura da parte di molte istituzioni, c'è però, questo va dato atto appunto, invece l'atteggiamento di tante altre che in qualche maniera hanno voluto garantire la massima protezione ai propri sottoscrittori. Dottor Compiani, io torno a voi, tanto perché vogliamo ritornare sulla vostra offerta di scambio che partirà a breve. So che ci tiene molto anche a ribadire qualche cosa a proposito di questi prodotti di investimento che per molti però sono complicati, questo va riconosciuto. Quindi il tema a questo punto stamattina qual è? Come vengono distribuiti, come vengono piazzati, come vengono spiegati? Quindi è la consulenza che deve fare un passo avanti? La consulenza farà decisamente un passo avanti, perché deve farlo, perché la MiFID lo impone. Però, visto che parliamo di prodotti e strumenti finanziari che sono stati collocati negli anni passati, sì, condivido quello che ha detto il dottor Pedone. Non sono l'oste, quindi non do pareri sul vino. Posso solo dire che il discorso dei costi e la parte denigratoria sul mondo delle unit e delle index è stata anche molto una situazione da cavalcare al momento. Non sono convinto che sia corretto fare di tutte le erbe un fascio, e quindi penso che bisogna fare molta formazione all'interno delle varie reti di vendita e molta informazione a favore dei clienti. Ma se al termine di questa formazione, dottor Compiani, si scoprisse che comunque la platea dei giusti destinatari di questi prodotti è molto ridotta, comunque è chiaro che a questo punto un riversamento sulle logiche di costruzione dei prodotti di investimento va fatto? Ma questo è evidente, è già stato scoperto, nel senso che una cosa, ad esempio, lei ha iniziato chiedendomi appunto quante sono le persone interessate, abbiamo detto 10.000, abbiamo detto anche che riguardano un importo medio di polizza di 15.000 euro e che nell'ambito del nostro bacino di clientela è una percentuale decisamente minimale rispetto a quello che è la clientela di Banca Cariparma. E quindi questo vuol dire che noi abbiamo già posto, o comunque cercato di porre le nostre attenzioni in sede di collocamento dei prodotti, di spiegazione di tutto. Poi non possiamo essere garanti sempre comunque al 100%. L'esempio anche della telefonata dell'ultimo signore di Cento va in quella direzione. È quello che io ho detto, no? Quando ho detto le polizze assicurative per loro natura stimolano una situazione di tranquillità come tipo di prodotto, ed è stato quello che ha mosso Cariparma a prendere una decisione al di fuori della compagnia assicurativa quando è successo l'evento islandese, perché ha ragione il dottor Pedone, non è giusto dire si poteva prevedere, è stata la parte apicale della crisi, però è anche vero che noi operatori sapevamo al limite chi era e chi non era l'Islanda, per i clienti era poco più di un'isola, e quindi anche questa è la motivazione che ha portato Cariparma a prendere questa decisione al di fuori degli obblighi giuridici. Allora, noi stiamo terminando la nostra trasmissione, volevo ricordare un'ultima cosa a proposito della vostra offerta di scambio. Per chi fosse interessato, sul sito internet di Cariparma si trovano tutte le informazioni, questo comunicato stampa con tutte le motivazioni dell'offerta e gli elementi essenziali dell'offerta. Quindi date un po' un'occhiata ai prodotti di investimento che avete sottoscritto negli ultimi anni. Se avete una polizza index linked azione più che scade nel 2009, 2010, 2011, 12 e 13 di Crédit Agricole Vita con sottostante Glitnir, dottor Compiani, c'è questa opportunità di fare questo scambio con obbligazioni bancarie. Sì, mi permetto solo per completezza, siccome l'emissione è di anni fa la compagnia si chiamava Povita, sempre per essere trasparenti a favore dei clienti, magari oggi si chiama Crédit Agricole Vita perché ha avuto un cambio di denominazione, ma il contratto iniziale era di Povita Assicurazione. Io ringrazio il dottor Compiani di Cariparma di essere stato con noi, anche Alessandro Pedone. Alessandro, gli ultimi 10 secondi glieli concedo. Naturalmente, tra l'altro, ci sono ascoltatori che non hanno polizze legate a obbligazioni islandesi, ma direttamente obbligazioni islandesi. Per questi qua forse la situazione è un po' più complicata. Sì, volevo chiedere il gesto, come dire, di trasparenza della nostra controparte di pubblicare sul sito internet le note informative dei prodotti che adesso chiedono di scambiare, perché, come dire, bisogna capire un po' gli impegni che si erano presi allora, perché buon gesto questo di fare questa proposta di scambio, vediamo poi esattamente le condizioni economiche, però trasparenza vorrebbe che sul sito o dell'attuale Credit Agricole Vita o della della banca apparissero le note informative con la quale hanno venduto questi prodotti. Benissimo, mi pare che il dottor Compiani abbia preso atto del suggerimento. Grazie ad Alessandro Pedone. Dottor Compiani, buon rientro a Parma. Grazie. Magari ci risentiremo per capire com'è andata questa offerta di scambio. Grazie a tutti, a domani.